Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre, un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre parliamo di una vicenda che ha vista protagonista un'ambulanza della Croce Verde di Marcon. E proprio per questo raccontiamo questa vicenda e allarghiamo un po' il pensiero sulla garanzia delle automobili, delle autovetture. Sì, parliamo di una vicenda carina che ha interessato, come hai detto tu, la Croce Verde, e parliamo proprio di garanzia, perché molte volte ci sono gli utenti che ci chiamano perché hanno problemi proprio con le vetture nuove o con le vetture in generale, e magari si trovano ad avere i mezzi in sosta per mesi presso il concessionario o le officine e attendere magari il pezzo. E in questa situazione tanti non sanno come muoversi, a fronte anche di preventivi che poi li evitano, e per questo ci rivolgono a noi molto spesso e ben volentieri. E allora questo può essere l'occasione, oltre che per affrontare la vicenda, anche quella di dare alcune indicazioni che permetta poi a tutti i consumatori, insomma, ad orientarsi nella maniera più corretta. Giusto. E allora raccontiamola questa storia. Intanto raccontiamo proprio la vicenda dove la Croce Verde di Marcon, in questo caso siamo in provincia di Veneto, ha acquistato un mezzo nuovo della Peugeot e si è trovato dopo pochi mesi in piena emergenza a doversi fermare per rottura del motore. Al di là dopo del servizio che hanno dovuto in qualche maniera cercare di gestire con altri mezzi alternativi, e si sono ritrovati che questo mezzo il 30 dicembre è rientrato presso il venditore e ad oggi ancora rimanerà in attesa di ricevere un motore nuovo. Un motore nuovo che quindi pregiudica un'attesa, come abbiamo detto, che si sta dilungando oltre i termini ragionevoli, ma soprattutto sta recando gravi disagi e disservizi a un ente che, insomma, deve garantire un servizio molto delicato e quindi anche comunque sta sostenendo non solo dei disagi ma anche dei costi per effetto appunto della sosta forzata di questo mezzo. Quindi attraverso l'Adico stiamo spingendo presso la Peugeot Italia, insomma, mi pare di capire. Sì, in questo caso noi ci siamo rivolti al venditore e a Peugeot Italia, perché chiaramente dovendo ricevere in mezzo un motore nuovo, chiaramente il venditore cerca di fare un po' nelle orecchie da mercante, dirottando l'attenzione alla Peugeot Italia. Però in questo caso noi adesso stiamo valutando con l'ufficio legale quello di un'azione anche di risarcimento per i danni e i disagi che appunto quest'ente sta sostenendo, perché comunque tenere anche fermo un mezzo per un mese e dover sostenere dei costi anche come bolli, assicurazione e dei costi accessori per poter sopperire quello che in questo momento il mezzo non è in grado di dare o di garantire, certamente ci stiamo mettendo al lavoro per quantificare un po' anche tutta questa montagna e il disagio, diciamo, anche morale, definendo quello che può essere un valore di rivalsa, perché riteniamo che, insomma, a distanza di quasi un mezzo nuovo non può ancora essere in attesa di un motore che non si sa quando arrivi. Ecco, quindi si fa capire che, insomma, quando c'è una cosa che si rompe in garanzia, evidentemente deve essere sostituita entro un certo tempo. Allora, dobbiamo ricordare ai consumatori che innanzitutto la garanzia è sempre di 2 anni e il venditore, anche se è un concessionario, ha l'obbligo di dover ripristinare bene in un congruo tempo. Molte volte c'è confusione quando si acquistano auto usate, se parliamo appunto di vetture, che normalmente la garanzia non deve essere inferiore a 1 anno. Però rimane sempre anche quello che sono un po' i dispositivi che prevede il codice del consumo, che se entro un congruo tempo io non sono in grado di intervenire e ripristinare il bene, dovrei restituirti i soldi indietro o addirittura sostituirti il bene. L'importante è sempre avere il venditore come interlocutore unico di questa cosa e mai doversi, per esempio, pensiamo quando acquistiamo un elettrodomestico, rivolgersi all'assistenza, ma ricordiamo è sempre il venditore. Nel caso di un mezzo non c'è nessuna differenza, come non c'è nessuna differenza per quanto riguarda i 2 anni, in questo caso sui pezzi che vengono ricambiati, perché chiaramente se anche un'auto ha 5 anni e io cambio la pompa dell'acqua, chiaramente la pompa dell'acqua, la pompa della benzina o qualunque altro accessorio deve avere una garanzia di 2 anni. certamente piccoli consigli che magari possono aiutare anche il consumatore a non cadere nelle furberie di qualche venditore o di qualche negoziante, perché come ricordiamo tante volte le persone hanno gli acquisti nuovi, vanno direttamente all'assistenza, poi rimangono là fermi per un mese, due mesi, tre mesi e vengono da noi per pretendere una rivalsa quando noi non possiamo fare nulla, perché in quel momento là, rivolgendosi all'assistente e non al punto vendita, esulano quelle che sono poi le responsabilità. E concludo da non confondere quelle che sono le estensioni della garanzia, come chi magari dà magari i 3 anni, i 5 anni, i 100.000 chilometri, che sono un'assicurazione e non una garanzia, e quindi qua bisogna prevedere un pochino quello che definisce il contratto. Ecco, e quindi massima attenzione a queste cose. Ricordo però che l'ufficio dell'Adico, dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, è sempre aperto praticamente, si lavora sempre, e quindi quando abbiamo qualche problema, qualche dubbio, una buona telefonata all'Adico può essere sempre utile e in certi casi risolutiva. Grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, e ci risentiamo tra qualche giorno. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.